That's it. Sette spaccate del mattino. L'Ariele è qui al bancone di Rock FM in compagnia dell'inseparabile Spadino, reparto tecnico di Pane, Burro e Rock and Roll. Questo è il titolo col quale abbiamo scelto di servirvi la colazione qui a Rock FM. Abbiamo anche una sigla. Ah, e che sigla! Su note di Yanduri, da Sex, Drugs and Rock and Roll si trasforma in Pane, Burro e Rock and Roll, la tua colazione rock, la migliore in circolazione, eh? Fidatevi. Pane, burro e rock and roll, la tua colazione rock. Pane, burro e rock and roll. C'è anche Mr. Trombetta, ovviamente. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Allora, diamo inizio a questa nuova puntata. Non ho sotto mano la scaletta, Spadino. Una cosa devi fare di mattina e portami la scaletta. Scaletta, caffè, brioche, massaggino i piedi e ci siamo, no? Perché eviti di fare certi compiti? Sono fondamentali. Buona giornata, mercoledì 3 ottobre. Andiamo a cominciare. Avrei pensato un inizio per quest'oggi un po' differente, visto che ieri sera a Torino c'è stato il concerto, l'attesissimo concerto dei Police. Visto che qui noi di Pane, Burro e Rock and Roll nessuno ha avuto il coraggio di andare ed essere poi pronti a quest'ora del mattino, lancio al volo un appello a chiunque là fuori sta ascoltando la mia voce e ha anche ascoltato la voce di Sting e Soci ieri sera a Torino. Saremmo curiosissimi di sapere com'è andata e saremmo soprattutto curiosissimi di tanare i veri rocker che ieri sera hanno fatto le ore piccole per andare a gustarsi il concerto dei Police e a quest'ora sono già presenti sulle frequenze di Rock FM. Ricorderò tra pochissimo il numero di SMS, la nostra casella di posta elettronica. Io l'appello l'ho lanciato. Se c'è qualcuno che ha visto i Police ieri sera, mi contatti immediatamente, che siamo curiosissimi di sapere com'è andato e soprattutto come sta messo. Ci vuole un buon inizio per quest'oggi e noi ovviamente ce l'abbiamo. Tonight. Zeppelin. Living Lovin', meglio, ecco. L'ho annunciata un po' più professionale. 7-6 minuti primi, qui dallo studio di Rock FM, il nostro lampione crepuscolare, vero e proprio nuovo tormentone della stagione invernale della nostra trasmissione radiofonica. Lampione crepuscolare ancora acceso. Confesso subito che questo appello lanciato a chiunque là fuori avesse assistito al concerto dei Police è un appello lanciato per sedare i sensi di colpa che in realtà abbiamo qui nella redazione di Pane, Burro e Rock and Roll. Devo confessarvi anche che in extremis ho ricevuto anche un invito. Dai Ariele, andiamo. Ecco, io reduce da un'influenza gigante, reduce da un weekend pesantissimo, pensando alla sveglia di stamattina ho rinunciato. Questo mi decurto un paio di punti sulla mia patente da vero rocker, che tra l'altro non ho ancora, perché non sono andato a vedere i Police, essendo uno staccanovista di Pane, Burro e Rock and Roll. Intanto... nessuno si è fatto sentire, quindi sembra che nessuno in questo istante all'ascolto ha visto il concerto di Torino dei Police. Io ricordo però i contatti, nel caso magari è lì e dice no, io li ho visti ma non mi ricordo come contattare Pane, Burro e Rock and Roll. Il numero di SMS è semplicissimo: 335 100 77 77, numero di SMS al quale siete accolti tutti a braccia aperte come ogni giorno fino alle 9 del mattino. La colonna portante di questa trasmissione siete voi, quindi scrivete, inviate qualsiasi cosa vi passi per l'anticamera del cervello a quest'ora del mattino. Per esempio, quello che arriva in diretta in questo momento: spento il crepuscolare alle 7:08, qui è sereno, umido. Ecco, non per forza segnalateci lo spegnimento di tutti i lampioni crepuscolari, se no non la finiamo più, però grazie della segnalazione. Dicevo, una casella di posta elettronica che a quest'ora solitamente consiglio agli amici che ci ascoltano in streaming, ovvero ariel@radiorockfm.com, anche coloro che poi riascoltano la puntata nel corso del pomeriggio, tanto le mail restano lì, quindi... Poi noi il giorno dopo le ritroviamo, ne ho qualcuna che commenterò nel corso di questa puntata. Ovviamente entrerà a gamba tesa anche quest'oggi il nostro rocker di riferimento immancabile nelle nostre dirette mattutine, Roberto Fricantoni. Ma ora David Lee Roth. Senti qua che classe. Oh yeah. When youth will pass away, what will they say about me? When the end comes, I know it is but just a gigolo. Life goes on without me. I'm just a gigolo. And everywhere I go, people know the body is playing. Pay for every dance, selling each romance. Ooh, what they say. Bop. Di scena. Un saluto a tutti gli amici radioascoltatori e radioascoltatrici dai microfoni di Pane, Burro e Rock and Roll. Le frequenze sono quelle di Rock FM, la voce è quella di Roberto Fricantoni, seguita a ruota da una persona che, ahimè, rimpiango non sia qui, perché nel fare gli almanacchi so che mi inciamperò su questo nome. Era il 3 ottobre del 1283 quando Mr. Eccomi qui, buongiorno. Ah, Roberto. DJ Ari, finalmente mi aiuti. Stava legga lei. Stava parlando di Daffid Up Gruffid. Ah, complimenti, celebre. Accidenti, buona come giornata, lei, Frank. Va liscio. Buona giornata, buon il mercoledì 3 ottobre. Il celeberrimo principe di Gwynedd Galles. Ma lei veramente lo conosceva? Ma certo, personalmente. Secondo me si è ripassato gli almanacchi. No, non lo conoscevo. Da solo di là. Ma... Però fu il primo ad essere giustiziato con il celebre metodo del drawing and quartering. Che cosa significa, DJ Ariel? Senso? Me lo dica, questo drawing and quartering. Squartamento. Ah, una cosa sì, delicata. Si faceva, ai tempi si faceva. Usava, un'usanza dei tempi. Passiamo al 1789. Il 3 ottobre del 1789 il mitico George Washington proclamò il primo giorno del ringraziamento. Ed io che sono americano, so che si dice Thanksgiving Day. Bravo, ottimo. Esca da questo e corpo. Si mangia il tacchino. Esca da questo Prenda corpo. Prenda questo pezzo di tacchino. Questa è una cosa che piace a Fricantoni, al Fricantoni che conosco io. 1837, Samuel Morse brevetta il suo codice. Finalmente un codice. Che codice sarà? Il codice Morse. Sapevo, un aiutino. Grazie, il codice Morse dell'omonimo Samuel Morse. Proseguiamo con una brutta notizia per la musica italiana. Era il 1990 quando i CCCP fedeli alla linea si sciolsero proprio il 3 di ottobre. Colpo di scena, il 3 di ottobre. Quando abbiamo una notizia esclusiva. Lei sa che nel 1995 negli Stati Uniti i giudici di Los Angeles giudicano innocente il campione di football, giudicarono innocente il campione di football ed attore O.J. Simpson. E qui l'episodio divenne famoso. Era accusato di aver ucciso la moglie ed il di lei amante, il suo amante, l'amante della moglie. Tutta l'America si fermò per assistere in diretta al verdetto che fece discutere tantissimo. Dopo che si era già fermata a guardare il famoso inseguimento invece sulle strade americane. O.J. Simpson che tutt'oggi continua a combinarne di cotte e di crude. Un ragazzaccio. Un rocker. Un ragazzaccio. E beh, che c'è? The city streets are empty now. Turn the Stone, Electric Light Orchestra, la diretta di Pane, Burro e Rock and Roll anche questa mattina sulle frequenze di Rock FM. Sì, non ci hanno ancora cacciato. Abbiamo iniziato questa 23esima puntata lanciando un appello, cercando un vero rocker tra di voi là fuori, un rocker certo, qualcuno che fosse stato a Torino ieri sera a vedere i Police e a quest'ora fosse già attivo, sveglio, bello fresco per andare al lavoro. Secondo voi non ce li abbiamo i rocker all'ascolto? Ovviamente sì, l'abbiamo tanato. Luca, 41 anni, Milano, ieri sera a Torino, adesso al lavoro. Buona giornata, Luca. Ciao Ariele, come stai? Ciao a tutti. Io sto benissimo, tu? Molto bene, ma sono rimasto molto soddisfatto anche di ieri sera, molto soddisfatto, stupendo, ragazzi, concerto meraviglioso. E si sappia, i rocker non hanno bisogno di dormire se vedono un concerto che hanno voglia tornata di vedere. A casa alle 2:30, sveglio alle 5:30. Perfetto. E chi se ne frega. Tra l'altro mi accennavi in fuori onda, cosa da altrettanto da rocker, ti sei presentato con Pargolo. Un pargo 13 anni che suona la chitarra e la frusta come un matto, un mancinone di quelli violentissimi, che è già la sua band. Luca, suona in taverna a casa mia. Ti sei appena guadagnato la tua patente da vero rocker honoris causa. Ah, senti, grandissimo, grazie. Raccontaci un po' che cosa è successo ieri sera, come sono stati questi Police? Sono stati dei professionisti veri, hanno cominciato subito con le canzoni classiche tipo Messaggine Battle per poi finire a Walking in Your Footsteps, ma veramente hanno suonato da Dio. Sono molto professionali, quindi non concedono moltissimo al pubblico. Noi però ci siamo sbattuti e ballato, abbiamo ballato come le mani. Un po' English. Molto English, e soprattutto Andy Summer un pochino più, un po' inchiodato, un po'. Non è molto preciso, ma è bravissimo. Stuart Copland numero uno. In Fuori Onda mi parlavi anche in ciccionito. Non copo. Un po' inciccionito, vabbè, non quello, non comment. Quello che ti ho detto Fuori Onda non posso ripetere, non mi fa figurare. Ok, va bene. Comunque sei soddisfatto. Molto soddisfatto, e ci andrei tutte le sere a vedere concerti di quel tipo. Sono veramente bravi. Ti dicevo, c'era un altro SMS che commentava il concerto dei Police, un tributo a una band che non c'è più, si firma Zorapide. Tu non. No, ci sono dentro i nostri cuori quei ragazzi, sono troppo forti. Soddisfatto per quella nostra generazione. Soddisfatto della reunion, allora? Assolutamente, Luca, ragazzi, stupenda. Allora, io invece sono soddisfatto di te, è così che vogliamo i radioascoltatori, che non dormono, mi vanno a vedere i Police e poi belli svegli. Grazie per andare a lavorare. Un bacio saluto. Bacio a Frick è numero uno. Glielo do volentieri, un bacio a Frick, tu dallo a tuo figlio che forse è meglio. E a prestissimo per la patente honoris causa. Grazie mille. Onore al merito. Buono. Luca, alla prossima. Ciao, grazie. Ciao, ciao.